su una spiaggia, dopo lunghi anni di viaggio, tu un tratto mi vedrai e riguarderemo insieme le impronte che avrai lasciato impresse sulla sabbia. Sempre stato con te, senti nell'aria un'euforia che tutto travolge, senti nell'aria una magia che tutto risolve. Guarderei con attenzione e vedrai che alcune volte una traccia mancherà. Penserai che in quei momenti io ti abbia abbandonato nel dolore più profondo. Ma quei passi pesanti saranno miei. Quando nello smarrimento non vedevi più una via e ti ho portato sulle spalle, senti nell'aria un'euforia che tutto travolge, senti.